Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro e ben ritrovati ad uno degli appuntamenti di Radio 24 con il mondo dell'autotrasporto, della mobilità e della logistica. Oggi partiamo facendo idealmente un salto a Trieste, dove nei giorni scorsi si è svolto il vertice tra i ministri dei trasporti dei paesi dei Balcani occidentali, presieduto dal nostro vice ministro Riccardo Nencini alla presenza del commissario europeo ai trasporti Violetta Bulc. I sei paesi sono il Montenegro, la Macedonia, l'Albania, la Serbia, la Bosnia Erzegovina e il Kosovo. Al termine del vertice è stato firmato un trattato. I punti centrali dell'accordo sono l'avvio di una cooperazione sul fronte delle infrastrutture e uno scambio di informazioni sistematico tra le polizie dei vari paesi nel segno di un impegno comune sul fronte della sicurezza stradale, tema che in questa trasmissione da sempre seguiamo con particolare attenzione. A questo proposito si è parlato dei provvedimenti inseriti nel nuovo codice della strada. Il testo è ancora in discussione alla Commissione Trasporti della Camera. Tra questi, come vi avevamo anticipato lunedì scorso, è inclusa una misura che prevede sanzioni più pesanti nei confronti di chi usa smartphone o altri dispositivi mentre è al volante. E c'è poi un altro provvedimento a tutela dei ciclisti nelle città. Le statistiche e i casi di cronaca confermano che l'incidenza degli incidenti che li vedono coinvolti è in aumento. Sui due punti sentiamo al nostro microfono il vice ministro Riccardo Nencini. Ne ha parlato anche la commissaria Bulc. Una delle ragioni in crescita nell'Unione Europea degli incidenti è l'uso di smartphone, tablet, tutto quello che diciamo così di innovazione tecnologica che capita nelle nostre mani, soprattutto nelle nuove generazioni. Ho già presentato un emendamento che riguarda un inasprimento delle sanzioni fino alla riduzione dei punti della patente da 5 a 10 per la prima infrazione, poi il ritiro della patente da 1 a 3 mesi in commissione ottava alla Camera su un provvedimento siglato dal Presidente della Commissione Michele Meta. Sempre nel provvedimento cosiddetto Meta è stato inserito un nuovo emendamento che riguarda la tutela, definiamola così, tutela dei ciclisti. Siccome l'utenza debole, pedoni, ciclisti, motociclisti nel cuore delle città sono i soggetti che rischiano di più sulla strada, abbiamo inserito questo emendamento che prevede per ogni auto che sorpassi un ciclista perlomeno il rispetto della distanza di 1,5 metri nel sorpasso. Esce di scena invece un altro provvedimento del quale si era parlato nei mesi scorsi, e cioè il limite di velocità di 30 km orari da adottarsi nei centri urbani. Sentiamo ancora il vice ministro Riccardo Nencini. Ho provato a inserirlo, ma è una discrezione piena da parte dei comuni. Quindi quello che può fare più che il codice, diciamo così, una norma di indirizzo è dare un orientamento, perché nei centri abitati, soprattutto nei centri dove c'è una presenza molto forte di scuole o comunque un abitato abbastanza denso, fare in modo che i comuni imprimano un indirizzo di questa natura. Però, lo ripeto, è nelle competenze delle autorità comunali. A proposito di centri urbani, accanto alla sicurezza, l'altra linea d'azione strategica per il presente e per il futuro delle nostre strade e dei nostri territori riguarda la sostenibilità dei sistemi di trasporto, sia di merci che di persone. Da questo fronte arriva la notizia che entro il 2019 nelle città europee entreranno in servizio 2000 bus a emissione zero, cioè alimentati ad energia elettrica. È l'impegno contenuto nella dichiarazione comune firmata durante la riunione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni. Partecipano 24 città, 12 regioni, 3 organizzazioni dei trasporti, 11 aziende e 5 associazioni rappresentative del settore. Per l'Italia al momento fanno parte del comitato il Friuli Venezia Giulia, i comuni di Milano e di Pisa, e a breve potrebbero aderire anche i comuni di Genova e Parma. Attualmente in Europa i bus elettrici non superano il 12% del parco circolante, parliamo in tutto di più di 200.000 mezzi. L'obiettivo è arrivare al 25% entro il 2025. E sempre nel segno della sostenibilità e della sicurezza stradale, un'altra notizia arriva dalla Germania. Il governo tedesco ha annunciato che finanzierà con 2 milioni di euro un test per verificare il funzionamento del cosiddetto platooning tra Monaco di Baviera e Norimberga. È un sistema altamente tecnologico che prevede in sostanza la formazione di un convoglio di mezzi pesanti interconnessi tra loro e quindi guidati solo dall'autista del veicolo che apre il corteo. Praticamente, banalizzando un po', un treno merci senza binari. Un sistema sistema di questo genere garantirebbe emissioni ridotte e più elevati standard di sicurezza. E ora veniamo ad una questione che riguarda in particolare le piccole aziende di autotrasporto. Un paio di settimane fa avevamo raccolto la protesta di Unatras per il mancato invio da parte dell'Agenzia delle Entrate della circolare con l'ammontare delle deduzioni forfettarie per le spese non documentate. Si tratta di una misura a sostegno del settore. Questa voce va inserita nella dichiarazione dei redditi, la casella però è rimasta vuota e così per gli autotrasportatori non è stato possibile presentarla entro il 30 giugno. La circolare infatti è stata ufficializzata solo il 4 luglio. Per la cronaca, la deduzione forfettaria di 51 euro per i servizi effettuati al di fuori del comune nel quale ha sede l'azienda ed è pari al 35% di ciò che è riconosciuto per gli stessi trasporti se svolti oltre confine. La conseguenza del pasticcio è paradossale: ora come ora gli autotrasportatori sono soggetti alla sanzione prevista per la ritardata presentazione della dichiarazione dei redditi, cioè una maggiorazione pari allo 0,40% a titolo di interesse. Insomma, sono responsabili per colpe e non loro. A calcolare l'onere aggiuntivo a carico della categoria ha provveduto la CGA di Mestre. Sentiamo Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi. Noi abbiamo stimato sulla base delle dichiarazioni dei redditi che sono state effettuate negli anni scorsi che complessivamente le piccole aziende artigiane del settore dell'autotrasporto saranno chiamate a versare circa 3 milioni di euro aggiuntivi, soldi non dovuti appunto a causa di questa negligenza, di questo errore, di questa svista, chiamiamola così, dell'Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato il comunicato stampa con le agevolazioni fiscali relative all'anno in corso solo dopo 4 giorni dalla scadenza del 30 giugno scorso. Non è la prima volta, anche se quest'anno veramente abbiamo abbondantemente superato il limite. Negli anni scorsi si arrivava un giorno o 2 giorni prima della scadenza. Obiettivamente anche gli anni scorsi non era possibile rispettare questa cosa, e lo ricordiamo che tra l'altro c'è un protocollo d'intesa siglato appunto dall'Agenzia delle Entrate con le associazioni di categoria di autotrasportatori artigiani che in qualche modo dovrebbero presentare questa comunicazione con tempi tali da consentire alle attività di poter fare la dichiarazione di redditi e quindi di beneficiare di queste agevolazioni nella determinazione del reddito. Ma ora cosa potrebbe o dovrebbe succedere per scongiurare gli effetti di questa beffa? Noi auspichiamo che ci sia un intervento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze che in qualche modo stabilisca per decreto che queste imprese non debbano pagare praticamente le imposte e quindi la dichiarazione dei redditi dell'anno scorso senza l'aggravio appunto dello 0,40%, perché sarebbe ovviamente un danno, una beffa per queste attività. Torniamo sulle strade. Un indice significativo per misurare lo stato di manutenzione è il consumo di bitume. Secondo i dati resi noti da SITEV, l'associazione dei costruttori e manutentori delle strade, nei primi 4 mesi del 2017, appunto, il consumo di bitume è diminuito del 4,7%. Strade tenute male significa strade insicure. Sentiamo Stefano Ravaioli, direttore di SITEV. Lo stato di salute delle nostre strade non è buono. Lo si capisce bene guardando i dati. Se poi i dati li guardiamo all'indietro, noi ci accorgiamo che la produzione di conglomerato bituminoso, indispensabile per tenere in perfetta efficienza la nostra rete stradale, è crollata al 50% di quella che è normalmente necessaria. Noi fino agli anni 2005-2006 producevamo in Italia 45-46 milioni di tonnellate. Dalla crisi in poi siamo sempre scesi e siamo fermi da ormai 3 anni a una quota intorno ai 22-23. Il consumo di bitume è calato in particolare per gli interventi lungo le strade comunali e provinciali. Secondo SITEB, oltre alle poche risorse a disposizione degli enti locali, a frenare i lavori lungo le strade ha contribuito anche il nuovo codice degli appalti. Sentiamo perché. Certamente la legge sugli appalti, che è giusta, è tuttavia capitata in un momento non favorevole, perché la nuova legge sugli appalti impone alcune cose, tra queste per esempio che si dia il via e il là agli appalti solo di progetti totalmente definiti, cosa che in passato non è mai stata fatta. Per cui gli enti appaltanti, le pubbliche amministrazioni, i committenti, prima di mandare in appalto una gara pubblica, deve avere un progetto non solo definito, ma anche ben definito, al punto da essere cantierabile in tempi brevissimi. Questo purtroppo non succede, per cui in molti casi abbiamo assistito ad eroghe, in altri casi gli appalti sono stati rimandati perché non tutti sono pronti con le disposizioni della nuova legge. Con hashtag Autotrasporti oggi è tutto, grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.